Radio 24 Reportage. 8 marzo, contro la violenza. Storie di donne che ce l'hanno fatta. Di Lidia Zancaner. Ormai conosciamo i numeri. Un terzo delle donne nel corso della vita subisce violenza, l'80% da mani conosciute, maltrattamenti, atti di stalking, violenze sessuali. Nel 60% dei casi sono commessi dall'ex partner. In circa 130 volte nel 2018 e 2019 hanno portato al femminicidio, una quindicina nel 2020. A lanciare l'allarme a fine gennaio anche il procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi. Gli omicidi calano, ma i femminicidi restano stabili. L'Italia vede dunque un numero di omicidi in rapporto alla popolazione inferiore alla media europea e tra i più bassi del mondo. In questo contesto positivo è ancora più drammatico il fatto che permangono pressoché stabili, pur se anch'essi in diminuzione, gli assassini di donne, consumati nel contesto di relazioni affettive o domestiche. Aumenta di conseguenza il dato percentuale rispetto agli omicidi in danno di uomini in maniera davvero impressionante. Con le manifestazioni, le campagne di sensibilizzazione, le nuove leggi, qualcosa sembra muoversi. E allora oggi, 8 marzo, giornata internazionale della donna, vogliamo raccontarvi le storie di chi ce l'ha fatta, donne che grazie al sostegno e all'appoggio ricevuto hanno trovato quella forza che per un attimo avevano perso. Le chiameremo Vera e Claudia. Ho deciso di accettare di fare questa intervista per rompere il tabù del non parlare di esperienze di violenza che possono capitare, questo perché mi sembra che ci sia un pregiudizio su questi temi e che la donna in qualche modo come si debba vergognare, oppure che la donna debole, quella con le scarse risorse, la vittima. In realtà una donna che subisce violenza è una donna normale. Il primo passo è raccontare, anche se la persona davanti a te ti crede o non ti crede, non fa niente. Racconti, parli e avrai la forza, perché la forza ce l'avevo già prima, ma l'ho persa. Parlare, raccontare dunque è il primo passo del percorso che può portare all'uscita dalla violenza. A spingere Vera e Claudia a chiedere aiuto è stata la consapevolezza di essere sole. Mi ha spinto la consapevolezza che ero sola in questa situazione. L'istituzione non mi aiutava, non c'era modo di uscire da questo circolo di violenza e soprattutto il rivolgermi ad un'associazione ha potenziato il mio grado di consapevolezza su quello che mi stava accadendo, su come questa violenza aumentasse e su come gli episodi si restringessero. Mi rendevo conto che mi sfuggiva di mano e io mi sono rivolta addirittura prima che la violenza fisica venisse fuori ad un centro antiviolenza e questo mi ha aiutato tantissimo. Vera lavorava, aveva un contratto a tempo determinato che non è stato rinnovato proprio in concomitanza a un episodio di violenza. È stata 6 mesi in casa rifugio, i 6 mesi più impegnativi, ci racconta. Ha denunciato e c'è stato un processo. Claudia no, non ha denunciato. Il suo percorso in comunità è durato 2 anni. Avevo paura. Se denuncio, il rischio si alza. Io proprio per chiudere tutto il passato non volevo avere altre, andare, incontrare la persona, non avevo neanche voglia di continuare a perdere il mio tempo, che una delle cose che mi ha fatto proprio stare male del tempo che ho perso nella mia vita. Vera e Claudia si sono rivolte al CADMI, la casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano, primo centro antiviolenza nato in Italia 34 anni fa. Siamo andati a visitarlo. Appena apri la porta, sulla destra c'è la segreteria, poi una stanza con le operatrici di accoglienza, le figure di riferimento per le donne. In fondo al corridoio si entra in una grossa stanza con le sedie fucsia. Lì si fanno le riunioni, le attività di gruppo. Ci sono anche 2 spazi riservati ai colloqui. In tutto lavora e collabora col centro una 50 di persone, tra cui 10 avvocate, 4 psicoterapeute e una 30 di volontarie. Il nostro obiettivo obiettivo e costruire un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, ci racconta la coordinatrice generale Cristina Carelli. Già in telefonata facciamo prima di tutto una valutazione del rischio, perché molto spesso le situazioni collegate a una situazione di violenza sono anche pericolose e rischiose per la donna. Poi facciamo in modo che la donna si racconti e quindi porti anche quelli che sono i suoi bisogni, quello che è un suo progetto, quantomeno anche soltanto delineato per il futuro, e poi cerchiamo di farla venire da noi. Nel caso in cui invece c'è un'emergenza e quindi la signora non può rientrare a casa, mettiamo in campo anche una messa in protezione che va costruita ad hoc sui bisogni della donna. Molto spesso queste donne hanno dei bambini e quindi la messa in protezione diventa anche complicata, perché chiaramente questi bambini sono figli degli uomini maltrattanti, e qui entra in campo tutta una macchina che ha a che fare con il tribunale, che ha a che fare con il servizio sociale, quindi, come dire, la situazione diventa molto più complessa. Al centro si rivolgono 800 donne l'anno, con 500 inizia un percorso che di solito dura oltre 12 mesi. Sono per lo più donne giovani, tra i 18 e i 30 anni e over 75, circa la metà ha origini straniere, oltre il 90% riesce a uscire dalla violenza. Se si lavora bene con le donne rispettando i loro tempi, poi le donne escono da queste situazioni e si costruiscono poi una vita fuori dalla violenza. Per esempio le ragazze escono molto più velocemente dalla violenza, hanno bisogno di essere molto supportate, ma poi davvero spiccano il volo e quindi direi che in un anno e mezzo vanno proprio sulle loro gambe. Le donne con i bambini sono una categoria molto rallentata nel loro percorso di uscita dalla violenza, non per loro volontà, ma perché si entra in una macchina che ha dei suoi tempi, che non corrispondono spesso ai tempi e ai bisogni delle donne e dei bambini. Quindi noi abbiamo donne che purtroppo, non so, permangono in una comunità mamma-bambino per 4 anni. Sono donne che sono legate anche nel loro percorso all'aspetto legale. I fattori, diciamo, di rallentamento possono essere tanti. Noi vediamo donne che hanno un grande desiderio di essere autonome. A Milano il 60% delle donne che si rivolge ai centri lavora attività per lo più precarie. La maggior parte lo ha perso proprio a causa della violenza. Cadmi, grazie a un bando vinto nel 2016, ha uno sportello lavoro. Lo scopo, infatti, dopo l'autonomia emotiva, è il raggiungimento di quella economica, sottolinea Malvina Monti, operatrice di accoglienza. Nel tempo sono state create sicuramente tante relazioni, sia con privati che con istituzioni, che con noi fanno progetti. Sicuramente aziende, alcune appartenenti al campo del lusso, abbigliamento, e quindi nel tempo sono state create diverse partnership e queste aziende sostengono i percorsi di uscita di alcune delle donne che possono essere donne ospiti nelle nostre case, piuttosto che donne che noi abbiamo incontrato nel tempo ma che non sono nostre ospiti, che quindi si sono rivolte al centro antiviolenza e con le operatrici dell'accoglienza stanno facendo un progetto di recupero appunto dell'autonomia. E poi c'è la rete, le relazioni con le istituzioni, le forze dell'ordine, i servizi sociali. Non sempre sono rapporti facili a causa anche della scarsa formazione, spiega Vera. Prima di iniziare il percorso manca proprio l'ascolto. Io quando mi sono rivolta all'istituzione o alla polizia mi hanno detto: ma signora, chiami il 113 e noi arriviamo, e non è una risposta. Durante il percorso c'è sempre comunque un rapporto ostico, un rapporto in cui la donna viene ascoltata ma spesso viene anche giudicata. Quando poi l'uomo esce dal carcere si riprospetta per la donna un momento delicato, un momento in cui la donna deve essere tutelata, a mio parere, con l'oscuramento dei dati sensibili. Questo non avviene e quindi la donna è lasciata nuovamente sola. Cosa ti è mancato di più? Quello che mi è mancata di più è stato proprio l'aiuto delle istituzioni e la comprensione delle istituzioni a cui io mi sono rivolta, in cui io ho sempre trovato un muro di gomma, in cui ho trovato anche purtroppo spesso poca professionalità. Mi fido di te. Mi fido. fido di te. Solo il 10% delle donne in Italia denuncia, ma sono 33.000 l'anno quelle che iniziano un percorso nei centri antiviolenza. Oltre il 60% ha figli minori. La soddisfazione per chi lavora con loro è vedere donne che dopo anni di sofferenza cambiano vita. Catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Che consiglio ti sentiresti di dare a chi è nella tua situazione, cioè a chi vuole chiedere aiuto ma non ha ancora iniziato il percorso? Io consiglio di rivolgersi ad un'associazione, a un centro antiviolenza, perché è una questione che va comunque condivisa, c'è bisogno di un aiuto concreto ed è una questione che non può e non deve rimanere una questione privata. Ho voglia di volare, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te. Mi fido di te. Io mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.